La casa di riposo, lavoravo come un mozzo, vagavo col singhiozzo. E molto spesso non ci rendiamo conto di quanto siamo fortunati, mentre loro con gli occhi intoppati da paglia e da travi, dal fato i malati allettati, con le vene gonfie di veleno, incoronati da prigioni, da perimetri quadrati illuminati a penzoloni, con lo sguardo fondi all'orizzonte, mattine di speranza nella brina di settembre. Come un camaleonte cambi colore su dalla tua fronte, all'indietro come un gambero si spezza un altro ponte. Nel tempo dell'attesa lo squallore di pareti malandate, rampicanti come edere infestate da crepe su di ciume, comignoli nell'etere, finestre come colombe sole carburante, orfani del niente in quattro stanze, le guance rosso porpora, vascelli del tramonto. Il tuo racconto è un giudizio che mi frusta, è la voglia di essere ingoiato dalle gallerie poi spedito in una busta. È un ascensore in un castello di vite, cancello di spine blindate, serrate con la vite ad una chiave, voglie colorate quando medicate, il mio cuore dilaniato dalle offese malate. La tua mano ruvida colpisce la mia collera, bicchiere di liquore a pezzi sulla federa, sul cuscino salato con le lacrime di piaghe da decubito. Ora metti con le foglie zoppe dentro le pozzanghere, i tuoi arti appassiti sono parassiti. Ti vedo piangere, troppe cicatrici, dai, dai. Tabernacolo, una spada, una moneta alla ricerca di un miracolo. Disegni la tua sorte su tele di girovaghi, senza fissa dimora come i nomadi. Poi la tua sedia a rotelle non ti parla, il succo, un rosario come arma, una croce come salma. Le luci dell'alba accendono il tuo karma, elettrostimolatori nella pancia. Dopo l'incidente, immobile sul letto, paralizzato, avvolto dalla plastica puntata come dentro ad un sacchetto. La ragione monca addormenta le tue ossa, è grigia come i tuoi capelli la sommossa. Nell'ora d'aria quel terrazzo per farla finita, l'unica via d'uscita per sfondare l'impossibile ingranaggio di una chimica che si è accanita. Troppo presto, molto spesso basta un gesto per capire quanto siamo fortunati in questo mondo così mesto. E io respiro, poi cammino, tu respiri, costruisci gli obiettivi, in braccio agli infermieri punitivi, prendi sedativi, ma avanti sorridi verso viaggi infiniti. Lotta e decidi verso viaggi infiniti, se non ti suicidi sono viaggi infiniti, se ti confidi, viaggi infiniti, quando ti fidi, viaggi infiniti, verso altri lidi, viaggi infiniti, viaggi infiniti, viaggi infiniti, dai. Siro Blio, mezzo, Milano Afori, sono viaggi infiniti, viaggi infiniti. È il ritorno sul microfono, è il ritorno sul microfono.